Stavo male, triste il cuore perché non c'eri tu. Ti ho cercata, ti ho scovata, ma intanto andavo giù e non sapevo neanche come eri fatta tu. Ma l'istinto poi ti ha guidata e sei giunta qui da me. Abituato a stare male, io non ero pronto a te. Mio Dio Natalia, io ti ho sognata e poi sei stata vicino a me. Poi sei fuggita, io ti ho inseguita e ritrovata davanti a me. Ma stavolta era diverso, eri diversa tu. Ho iniziato quindi a giocare coi ricordi miei di te. Ma il ricordo presto è diventato solo un rimpianto in più. E pensarti si è trasformato in un gran malessere. Abituato a stare male, io ho avuto paura di te. Mio Dio Natalia, chi si rivede, chi non ci crede, si pentirà. Sai, l'ho capito, è tutto vero quel che è accaduto tra me e te. Non ho mai capito il motivo delle tue fughe da me. Le tue folli corse verso cosa? Chi lo sa se il posto tuo è qui con me? Perciò direi, se vuoi restare, no, non fuggire, rimani qua. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria di libertà. Mio Dio Natalia, chi si rivede, chi non ci crede, si pentirà. Poi sei fuggita, io ti ho inseguita e ritrovata davanti a me. Mio Dio Natalia, chi si rivede, chi non ci crede, si pentirà. Poi sei fuggita, io ti ho inseguita e ritrovata davanti a me. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria di libertà. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria di libertà. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria di libertà. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria di libertà. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria di libertà. Tu hai Natalia, la pelle chiara e dolce aria.